1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci, cari ascoltatori, a leggere i giornali. Vi ricordo i temi di oggi. Oggi torneremo sul tema degli impresentabili in politica, visto che è l'apertura anche di molti quotidiani oggi. Avremo con noi Antonio Padellaro, avremo con noi anche Anna Rita Leonardi, con la dirigente del PD in Calabria, che è andata a Platì, là dove nessuno vuole candidarsi, nell'Aspromonte, per dire rilanciamo la politica da qui. Avremo ospite anche il presidente di Autotaxi 8585, Alessandro Casotto, taxi di Milano. Sapete che c'è stata questa sentenza sfavorevole a Uber per un'applicazione bloccata. I tassisti sono sempre molto arrabbiati con Uber. Ci seguono anche molto i tassisti. Lavoro ovviamente che rispettiamo, abbracciamo tutti voi. E avremo oggi uno dei vostri rappresentanti alle 8:40 con noi. Intanto andiamo a leggere i giornali. Al giorno 27 del mese di maggio, mercoledì. Intanto i titoli: Il Sole 24 Ore apre sul governatore di Banca Italia Visco, riforme bad bank per consolidare la ripresa. Questo è il titolo di apertura. Poi, come detto, la questione degli impresentabili è un po' su tutti i giornali. Repubblica: i 17 impresentabili di Puglia e Campania, scontro sui nomi. Per il Corriere della Sera, il giudice riapre il caso De Luca. Se sarà eletto e decadrà, non potrà contare sulla linea favorevole del TAR. La Stampa: Cassazione antimafia, regionali a rischio caos. Il Fatto Quotidiano: De Luca silurato in Cassazione. Impresentabili, farsa antimafia. Per il Giornale: voto inquinato per questa vicenda. E il caos degli impresentabili anche è il titolo del Secolo XIX. Mentre Libero continua sulla questione vitalizi, ecco chi incassa la pensione a spese dei pensionati veri, è il titolo di prima pagina. Ma buttiamoci proprio e tuffiamoci sulla questione degli impresentabili. Come detto, ieri c'era la commissione antimafia che doveva decidere se rendere noti alcuni nomi. Ne sono stati resi noti solo 4 in Puglia. Perché? Perché c'è stata una riunione pirotecnica, diciamola così. Addirittura pare e racconta i giornali che si udivano le urla della presidente della commissione antimafia Rosi Bindi. Perché le urla? Perché a un certo punto, come spiega Paola Zanca sul Fatto Quotidiano a pagina 6, il titolo dell'articolo è La figuraccia dell'antimafia, mentre si discuteva se rendere noti i nomi oppure no, il senatore di SEL Peppe De Cristofaro in commissione alza la mano e dice: scusa presidente Bindi, ma hai visto il sito del Corriere della Sera? Al che Rosi Bindi ferma la riunione, apre l'iPad, va sul sito del Corriere, sgrana gli occhi e comincia a urlare, perché mentre loro sono lì a lavorare per capire se rendere noti o no i nomi, qualcuno li ha già spiattellati ai giornali. E in questo caso al Corriere. La Bindi perde letteralmente la testa, esce dalla stanza, la seguono anche il suo vice Claudio Fava che urla: ma vi rendete conto? Sono cose che neanche al ginnasio succedono. E l'indiziato numero uno per il gruppo è Francesco Duva, deputato del Movimento 5 Stelle di 28 anni. Lui però si mostra indignato. Io, solo perché mi hanno visto scrivere sull'iPad, mi accuso di aver dato questa notizia al di fuori, ma io rispetto le istituzioni. Sono usciti 4 nomi, beh, li avessi fatti uscire io ne avrei detti 5. Questa vicenda mi sa che suona molto vicina alla questione della farsa, perché allora alcuni nomi, come detto, sono usciti per ora 4: Giovanni Copertino, candidato con la Poli Bortone in Puglia, Fabio Ladisa in lista con Michele Emiliano in Puglia, Massimiliano Giano candidato con Schittulli in Puglia, così come Enzo Palmisano, anche lui candidato con Schittulli. 4 pugliesi. Repubblica però dice che ci sono anche 13 in Campania, ma su questi la lista dei nomi diventa nebulosa appena si varcano le province calde di Caserta, Avellino, Benevento. Dalla blacklist scompaiono dei nomi. Chi sono? Chi sono? Repubblica giura che tra i nomi che però non sono stati diffusi c'è Antonio Scalzone, rinviato a giudizio per reati associativi, candidato con Caldoro. In tutto questo, allora, Emiliano, candidato per il PD in Puglia, intervistato da Repubblica, prende le distanze da questo Fabio Ladisa. lui stesso Fabio La Disa dice io ritirarmi, ma io escludo tutto questo e querelo, eppure Emiliano dice la candidatura per me è ritirata, la sua candidatura, mi dispiace ma non possiamo fare altrimenti, mi dispiace per davvero, perché il motivo per cui è sotto processo è, diciamo così, non scandaloso, anzi parliamo di un fatto insignificante, una lite tra due imprenditori, una vicenda che attiene ad alcuni assegni, ma non è una questione di merito ma di metodo. Ci siamo dati delle regole e le regole prevedono che chi viene censurato dalla commissione antimafia per noi è fuori. Così Emiliano dice, stile Briatore, sei fuori, a Fabio La Disa. Questo Fabio La Disa, scrive il Corriere li intervista, li sente un po' tutti, no? Questi impresentabili quattro della Puglia. Fabio La Disa appunto dice mi infangano, ora denuncio tutti, anche Rosy Bindi. Io impresentabile, sono pazzi, è un errore madornale, infangano il mio onore. Ma che associazione mafiosa, denuncio tutti, la Bindi, i giornali. Ne ho parlato con Emiliano che conosce il mio casellario giudiziario, che però nel frattempo a Repubblica dice deve dimettersi. Oppure Copertino, Giovanni Copertino, 72 anni, ex ufficiale della Forestale in congedo. Vicenda che mi lascia indifferente. Io impresentabile, è stato accusato nel 2005 di corruzione e voto di scambio, ma fu prescritto nel 2011, pende però un ricorso. E lui dice la mia campagna elettorale continuerà serenamente fino all'ultimo. Oppure Massimiliano Giano, io? Ma sono già stato assolto in primo grado, cosa vuole che chiarisca? E ancora Enzo Palmisano, 53 anni, otorino laringoiatra di Cisternino, con Schittulli, sarà uno sbaglio, non mi viene in mente altro, io impresentabile. Insomma finisce un po', mi sa, a tarallucci e vino. Tra l'altro in tutto questo c'è il nuovo scenario per De Luca. La Cassazione ha stabilito che sull'incandidabilità i ricorsi non penderanno più al TAR ma ai giudici ordinari, il che vuol dire, in una maniera un po' complicata raccontano tutti i giornali, che nel caso De Luca dovesse essere eletto, nel caso dovesse essere sospeso, non dovrebbe più far ricorso al TAR per essere rimesso in funzione, ma nella sua funzione di presidente eventuale, ma dovrebbe ricorrere al giudice ordinario, il che è una questione un po' più lunga e un po' più difficile per De Luca, ma è uno scenario ovviamente futuro, futuribile. Giustamente Iena sulla Stampa la vede così: candidati di solito diventano impresentabili dopo essere stati eletti, di solito. Vabbè, ne parleremo alle 8.15. Invece voglio tornare un attimo sulla questione dei matrimoni gay, perché ci sono le parole molto pesanti, in un gergo che va molto su Twitter si potrebbe dire la tocca piano. Il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, ha definito la vittoria del referendum irlandese per le nozze gay una sconfitta per l'umanità. Queste le parole: credo non si possa parlare solo di una sconfitta dei principi cristiani, ma di una sconfitta dell'umanità. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, come scrive Gianguido Vecchi sul Corriere, non la manda a dire a proposito del referendum in Irlanda. Ci sono interviste interessanti, molto dotte, molto complicate, molto profonde, ve le segnalo e non le leggo. Il cardinal Casper fa un'intervista sul Corriere della Sera, il titolo è questo: anche molti fedeli vogliono le unioni civili ed è tempo che la Chiesa accetti questa sfida, così il cardinal Casper. Mentre Monsignor Bagnasco, cioè il presidente dei Vescovi Italiani, viene intervistato da Paolo Rodari su Repubblica, pagina 17. Dall'Irlanda, una rivoluzione con cui dobbiamo fare i conti. La Chiesa dialoghi con i gay, ma resta il no alle unioni civili. Bagnasco dice anche no alla legge Cirinnà, che è in discussione, la definisce una proposta di legge eccessivamente schiacciata su una disciplina di stampo paramatrimoniale. Al di là dei nominalismi, di fatto equipara la condizione giuridica delle unioni omosessuali a quella della famiglia fondata sull'unione tra uomo e donna. E questo per Bagnasco non è un bene. Comunque sono due interviste molto lunghe che vi segnalo. Sulla questione dei gay, tra l'altro, c'è un giallo che riguarda la candidata del PD in Veneto, Moretti. Lo scrive sia Libero che Il Giornale, avrebbe combinato un pasticcio di firme, nel senso che Alessandra Moretti, scrive Il Giornale, a pagina 6 ha firmato due petizioni. Una del forum delle famiglie, il forum delle famiglie che si impegna a tutelare, il forum veneto delle associazioni familiari che impegna i firmatari a approvare una legge regionale in difesa della famiglia naturale e applicare il fattore famiglia a imposte tariffe locali. Quindi il 22 aprile ha firmato questo manifesto e poi il 17 maggio ha firmato un manifesto della comunità Come Out per i diritti degli omosessuali, cioè ha firmato in pratica, secondo Libero e secondo il giornale, Moretti in tilt firma per i gay e per le famiglie. Lo scivolone della candidata per raccattare voti sottoscrive sia la petizione del forum familiare sia la petizione delle associazioni homosex, due petizioni che si contraddicono l'una con l'altra. Questo è almeno il giallo raccontato da Libero e il giornale. Ma siamo al premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa pensare della giornata. A proposito di TAR, che prima ho citato per la vicenda De Luca, il TAR, Libero, pagina 15. In un paese che si dice, mi dice Lorenzo Nespoli, Drapia, in provincia di Vibo Valentia, nella frazione Caria o Caria, insomma, dove siamo? Scriveteci, amici di Vibo Valentia, come diavolo si pronuncia? Caria, Caria, Drapia. In questa frazione di 200 anime era stata chiusa la posta, ma i cittadini hanno fatto ricorso perché c'è sempre un TAR, c'è sempre un TAR a Berlino. E allora il TAR ha riaperto l'ufficio postale per 200 persone. In un paesino c'erano due uffici postali, uno a Drapia e uno nella frazione Caria o Caria, che dir si voglia. E il TAR ha detto che ci vogliono tutte e due, non si può chiudere. Il TAR, finché non viene abolito, il TAR. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il tombino di Ghisa dell'informazione. Perché il tombino di Ghisa? Vabbè, lo prendo come un complimento, è resistente, tura le fogne, va bene. Allora, cari ascoltatori, gli ultimi giorni, gli ultimi scampoli di campagna elettorale, lo sapete, vedete i leader un po' ovunque, come dico spesso io, ironicamente, vi escono anche dal forno a microonde, se non state attenti questa mattina mentre fate colazione, i Renzi, Berlusconi, Alfano, Meloni, un po' ovunque, no? In tutte le trasmissioni televisive, vabbè, qualche carrellata di titoli, il leader del PD Renzi dice lunedì saremo il primo partito, in un retroscena di Marco Galluzzo a pagina 15. Io non attacco Berlusconi dal punto di vista personale come ha fatto la sinistra negli ultimi anni, però credo che dovendo scegliere tra il PD e Forza Italia, il PD sia il futuro e Forza Italia il passato. E ancora, se gli si chiede a Renzi se è immaginabile un suo passo indietro come quello che fece D'Alema a suo tempo, la risposta è questa: posso fare molte cose nella vita, difficilmente quelle che ha fatto D'Alema, no? C'ha sempre il dente avvelenato. E poi ce l'ha con i Grillo e i Salvini, due che urlano sempre. Ho visto toni molto rispettosi invece, e a me fa piacere in questa campagna elettorale. Dall'altra parte Berlusconi, anche lui un fiume in piena. Ieri è andato a Bruno Vespa porta a porta, a un certo punto ha chiamato Bruno Vespa dottor Fede, così racconta il Libero, poi si è corretto, scusi la gaffa e la vecchiaia. Dice che Salvini alla fine verrà sotto l'ombrello dei moderati, perché se siamo tutti uniti l'Italicum funzionerà. Un Berlusconi scoppiettante, racconta Libero, con Salvatore Dama, arruola Salvini appunto nel partito dei moderati. E poi ovviamente la classica battuta sul Milan. Sul Milan Berlusconi dice: io me ne intendo di calcio, lo capisco, ci sono dentro da 30 anni, ho qualcosa da dire e saprei allenare la squadra portandola ai vertici mondiali. Vabbè, qui siamo veramente a che cosa? Ditelo voi. Berlusconi, allenatore del Milan. Vabbè, abbandoniamo la campagna elettorale, tanto il tema lo riaffronteremo alle 8:15 con quello degli impresentabili. C'è il tema invece dell'immigrazione, è un tema molto caldo perché in Europa oggi si dovrebbe decidere questo accordo che dovrebbe portare 24.000 persone, migranti, arrivate in Italia a essere ridistribuite in Europa. In questo accordo sono esclusi Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, esentate dal sistema. Ci sono le perplessità di Francia e Spagna. Comunque oggi dovrebbe essere firmato questo accordo a livello europeo. Il tema e la domanda è, come ipotizzava ieri il Corriere della Sera, i 24.000 che vanno via dall'Italia sono di quelli che sono già qua, tra coloro che sono già qui, o tra coloro che arriveranno in futuro? Questa è la domanda più importante, alla quale non c'è una risposta in un senso o nell'altro. Alberto D'Argenio, a pagina 10 di Repubblica, racconta il piano europeo: dall'Italia via in 24.000, ma la domanda è proprio questa: verranno prelevati 24.000 migranti dall'Italia, dalla Grecia 16.000, il totale di 40.000 corrisponde al 40% del totale dei richiedenti che hanno una chiara necessità di protezione internazionale. Ma ieri sera, nella bozza di decisione che circolava, si leggeva che ad essere riallocati saranno i migranti che sbarcheranno sulle nostre coste dall'entrata in vigore della norma. Ma il testo all'ultimo potrebbe essere cambiato, comprendendo anche chi è già arrivato. Questa è la partita decisiva su cui oggi si capirà se questi 24.000 sono già in Italia e vanno redistribuiti, o se sono coloro che arriveranno. L'Italia, tra l'altro, è pronta a chiedere più fondi su questo tema in Unione Europea, così si legge sul Corriere della Sera con Francesco Verderami, a pagina 19. L'Italia gioca questa partita anche di avere un po' più di soldi per gestire questa situazione. A proposito di soldi, tra poco vedremo la questione della Banca Italia di Ignazio Visco, che ha parlato anche di ripresa economica, lo vedremo con Mauro Meazza. Prima però voglio andare sul Fatto Quotidiano, che da due giorni batte il tasto su questa inchiesta che riguarda le Poste Italiane. L'accusa, per quel che il Fatto Quotidiano può documentare, è questa, e la troviamo a pagina 2-3. Poste spiava, schedava e apriva le lettere dei suoi controllori. Cioè, ci sono dei controllori delle Poste, è una società esterna, si chiama Izzi. Questa società esterna controlla le Poste come? Recluta 400-600 persone che si inviano reciprocamente lettere e così controllano il tempo di spedizione e di recapito. Si chiamano droppers e receivers, cioè questi 400 collaboratori di questa società che controlla le Poste in maniera anonima, ovviamente, si spediscono lettere e poi fanno dei report per capire se le Poste sono efficienti. L'accusa, scrive il Fatto Quotidiano, è che questa Izzi e questi collaboratori devono rimanere ignoti alle Poste, perché altrimenti, se uno sa che quello mi controlla, gli recapito la posta velocemente e falsifico un po' tutto il sistema dei controlli a sorpresa. E l'accusa del Fatto è che Poste invece sapeva l'elenco e spiava addirittura l'elenco di tutti questi controllori esterni delle Poste stesse. Anche la Gcom, racconta Antonio Massari sul Fatto Quotidiano, avvia a questo punto un'istruttoria sul caso. C'è anche un esposto alla Corte dei Conti che denuncia esisteva una struttura, una sorta di spettre all'interno delle Poste per controllare tutto questo. Vabbè, e sono due giorni che il Fatto Quotidiano ha lanciato questa denuncia, questa inchiesta, e la trovate anche oggi a pagina 2 e 3. Come dicevamo, però, i numeri dell'economia, i numeri della ripresa lenta, ma ripresa che si vede, li ha dati ieri il governatore di Banca Italia Ignazio Visco. È l'apertura del Sole 24 Ore, e a questo proposito saluto il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, ma che ti piace oggi? Vedi? Non lo so, che cosa è successo? David Letterman, ho lasciato un caffè pagato? volevo tutta dire gratis, sì, gratis. Confermo che abbiamo diverse pagine oggi, le pagine iniziali dedicate proprio al rapporto, anche perché ci sono delle cosucce, e il termine naturalmente non vuole essere dispregiativo, abbastanza importanti, oltre al monito del governatore sulla necessità di accelerare sulle riforme, ci sono poi delle indicazioni, ad esempio sulla bad bank, cioè superare questo problema, ti ho già detto. Sì. Bravo, ti sei esercitato, bravo. Poi ti insegno più avanti un'altra parola in inglese che è importante. Poi ti devo far sentire io una cosa, questo proposito. Dai, dai, vai avanti. Ah, ma è una mattinata di sorprese questa. Volevo dire, tra l'altro, ci ha segnalato il governatore, il bonus degli 80 euro l'abbiamo speso, chi naturalmente lo ha potuto prendere sai che aveva un tetto di reddito, al 90%, quindi non si è evidentemente avuto un effetto limitato sull'economia reale, sui consumi, è stato utilizzato come era già stato segnalato, più che altro per rientrare da eventuali debiti, scoperture, un pagamento di mutuo e così via. Tutto questo nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, tra l'altro appunto con questo richiamo molto forte al problema delle sofferenze bancarie, della cosiddetta, ridillo tu che l'hai detto bene prima, bravissimo. Adesso dovresti dire altre due parole inglesi, voluntary disclosure, prova un po'. Su questa allora guarda, te lo faccio sentire subito. Allora noi abbiamo il nostro contadino di Terni, Angelino, che ogni tanto ci manda i messaggi in segreteria telefonica che io faccio ascoltare alle 6:45, ne ha mandato però uno proprio indirizzato a te e all'uso dell'inglese. Senti Angelino. Caspita, signore Milan, noi l'amici dell'Ubarre siamo disperati, non ci capiamo più niente, voi parlate soltanto lingue straniere, noi stessimo a parlare, a discutere dello giobacche, che significa sto giobacche? Non lo capivo, non si capisce, ma quello che non perdono a meazza l'amico tuo è quella parola strana, lo volontari disclosure, che cavolo vuol dire? Mannaggia la puttana, spiegatevi bene! Caro Mauro, lo dice benissimo lui. Ecco non c'è nulla da aggiungere. Spiegate per bene. Guarda, come si spiega adesso in 10 secondi, non te lo posso dire. Dire che insieme a Sole 24 Ore quest'oggi abbiamo 16 pagine per la voluntary disclosure. Non riesco a dirlo. Per il rientro dei capitali. Sì, vabbè. Per il rientro dei capitali. Ecco. Stamattina lo chiamo rientro dei capitali. Sì. Volevo dirti però, adesso sarà, io non vorrei bene che Angelino si arrabbiasse, sì, ma dovevo insegnarti anche un'altra parola. Angelino, mettiamo il carico da 90, aspetta, cos'è questo? Compliance. Compliance, Angelino, compliance. No, ma guarda, c'è un motivo, perché nelle pagine di norme e tributi ti segnaliamo, sì, che il fisco ti manderà più avanti alle persone fisiche, adesso cominciamo da alcune particolari società, delle email. Delle email, Angelino, email. Ma non è colpa mia, no, però. No, ma delle email per sollecitare appunto la tua compliance. Cioè, per dirti, forse non ci hai detto tutto, forse qualcosa non ci funziona. Ecco, vedi che si spiega bene, spiegatevi. Ravvediti, e così anche la Guardia di Finanza, la sua direttiva, che abbiamo riportato oggi nelle pagine di norme e tributi, dice sollecita alla compliance. Compliance. Ravvediti, forse non sei così in ordine, non vuoi ravvederti, ravvediti, ti benedico con l'abituale parola di chiusura, Alessandro. E un saluto ad Angelino. Angelino. Traffico! Alessandro Milan, il Fabrizio Frizzi dell'informazione. Fantastico. Fantastico, un abbraccio a Fabrizio Frizzi che spesso ci ascoltava, non so se ci ascolta ancora, intanto nel dubbio mandiamo un abbraccione a Fabrizio Frizzi. Allora dicevamo, per la questione dell'economia leggete tutto con annesse questioni in inglese, terminologia in inglese sul Sole 24 Ore. Allora noi parleremo dalle 8:40 del tema anche taxi Uber, sapete che c'è stata una sentenza ieri a Milano che ha bocciato il sistema Uber Pop, il servizio di trasporto passeggeri definito abusivo da tutte le autorità e da ieri fuori legge anche per il Tribunale di Milano, scrive il Corriere della Sera. Un'ordinanza che è un'ordinanza considerata pilota nazionale ha disposto il blocco di questa app e del sito internet, lo stop dunque al servizio di trasporto erogato, nonché il rimborso dei costi processuali e anche stabilito una penale di 20.000 euro al giorno da pagare in caso di inadempienza con un'ordinanza pubblicata online per 30 giorni. Uber dice andiamo avanti. Stop a Uber Pop in tutta Italia, concorrenza sleale ai tassisti è la vecchia questione. Ci sono varie interviste, per esempio intervistata Anna Calderelli, 55 anni, un passato da imprenditrice, ha iniziato a lavorare con gli utenti proprio utilizzando Uber Pop e dice: mi hanno requisito la macchina, ora rischio la condanna, io non sono abusiva, svolgo un servizio, i tassisti sono una categoria intoccabile. non si capisce perché le regole delle leggi della concorrenza debbano valere per tutti, edicolanti, panettieri, ristoratori, ma per i tassisti no. Dall'altra parte i tassisti si difendono a colpi di interviste, questo per esempio su Repubblica c'è l'intervista a Nereo Villa, tassista dal 73 a Milano, segretario generale del Satam CNA sindacato. Dice, è la dimostrazione questa sentenza che un po' di giustizia in questo paese c'è ancora. Uber Pop è davvero il nemico numero uno, chiede Repubblica. È una piattaforma che non rispetta le regole, fa concorrenza sleale, non paga imposte e contributi e porta via l'economia. Il lavoro è diminuito e un'incidenza c'è. A Milano abbiamo 4.885 taxi, che è una presenza superiore alla domanda. E riguarda Uber, dice questo tassista, io non lo prenderei mai e dico fate attenzione. Vabbè, questo è solo comunque il primo round, riconosce anche lui, ci saranno altre sentenze, la questione rimane su Uber Taxi. Per quel che riguarda la cronaca, beh, è abbastanza incredibile, rimango su Repubblica che dedica una pagina a questa nuova vicenda che riguarda la sicurezza nei tribunali. Certo, qualcuno mi ha scritto giustamente, vabbè, la sicurezza nei tribunali, ma il caso è questo: è una donna entrata con un coltello, con una lama da 20 centimetri nel tribunale di Lodi e il metal detector non funzionava, peraltro cosa denunciata, dicono, al tribunale da un mese, ma nessuno aveva provveduto. Ricorda il caso di Milano. E qui fortunatamente è finita bene, nel senso che ci ha rimesso solo una slogatura alla spalla la segretaria del magistrato Alessia Menegazzo, perché Maria Pia Sciortino si chiama, è entrata questa persona nell'ufficio di Maria Pia Sciortino, segretaria del magistrato, ha iniziato a dire dov'è la Menegazzo e poi subito colpi, strattoni, e la povera segretaria se l'è cavata con una slogatura alla spalla. L'autrice di questo folle gesto, Rosa Maria Capasso, 37 anni, precaria di Nola con una residenza a Codogno in provincia di Lodi. Poi dopo la PM Menegazzo, quando è stata fermata, ha cercato di avvicinarla a dire ma che problema c'è signora, ci siamo parlati una volta al telefono, e subito lei ha ripreso a urlare dicendo voglio ammazzare la Menegazzo. Ecco, la questione della sicurezza, qualcuno dice vabbè ma se l'avesse aspettata fuori dal tribunale, cioè la sicurezza totale è una chimera. È vero, però all'interno almeno di un posto di lavoro dove c'è un metal detector ci dovrebbe essere la sicurezza, per cui uno con un coltello lì non deve entrare. Se un metal detector è stato messo vuol dire che serve, e se è rotto va riparato. Non so, è tanto difficile da chiarire una banalità del genere. Oh, ieri parlavamo di Equitalia, questa possibile sentenza sull'aggio che, se fosse stata accolta, avrebbe creato un buco nei conti pubblici di 2 miliardi e mezzo. La Consulta salva i conti pubblici. È stato giudicato inammissibile, racconta Giovanni Bianconi sul Corriere, la questione di illegittimità della commissione dell'8% dovuta a Equitalia, e quindi respinto il ricorso, o meglio giudicato inammissibile, e i conti pubblici, almeno per questo, sentenza, sono salvi. Ricordo solo in chiusura, uno sguardo internazionale colpisce questo sondaggio che è stato fatto su Al Jazeera, tanto che la stampa dice un sondaggio shock su Al Jazeera. L'80% delle persone che ha risposto a questo sondaggio si dice pro ISIS, favorevole all'ISIS. Paolo Mastrolilli lo racconta a pagina 13 della stampa. La televisione del Qatar ha chiesto un giudizio sulle vittorie militari dell'ISIS e l'80% di chi ha risposto dice stiamo con loro. Ma è tornata su Libero la moda di Carlo Cambi di pubblicare i testi. Spero che un premier così non ritorni mai più, che gli italiani nell'urne lo buttino giù. Poi d'improvviso pensavo al denaro sparito e alle promesse che mi hanno rincoglionito. Votare non so, cantare No, no, no, no, ecco, no, no. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù e ma volavo. Ma chi se ne frega?